sera. Persone 10, c'è qualcuno? Attento 10, persone canale 10. Carlo da questa parte, direzione Alghero. Ciao Carlo, mi ascolti? Sì che ti ascolto, sono sulla camionale facendo la salitina prima dello svincolo per Alghero sulla 4 corsie. Oh, stai arrivando benissimo, sei quasi 9:20, ti ascolto perfettamente. A trabacco? Sì, Robè, al lavoro. Esco tardi alle 2 stanotte, entro alle 18 esco alle 2. Ma stanno volando gli aerei con questo tempo? Purtroppo sì, adesso in partenza l'ultimo che abbiamo è Madrid alle 22:40, poi sempre alle 22:40, 22:50 ci sono i due della continuità, Alghero e Milano. Poi si chiude la rotazione, si spengono tutti i macchinari e tra una cosa e l'altra abbiamo il turno sino alle 2. Ho capito, ma i cose, i radar rimangono sempre accesi anche se non c'è attività? Sì, i macchinari sono qua, rimane sempre tutto acceso, pronto, perché la torre è sempre in funzione, ci può essere anche qualche atterraggio d'emergenza come c'è stato da poco e anche aerei che non fanno scala ad Alghero, però si trovano in difficoltà, c'è sempre l'accoglienza, capito? E quindi sempre operativo. Quindi c'è la copertura H24 della torre di controllo? Sì, c'è il comando dei vigili del fuoco, sempre operativo, la torre di controllo, servizio safety e security, non 24/7. Come mi ascolti, Carlo? Vabbè, qua sta arrivando a bomba, vibra tutto. Santiago 9 più tutte le tacchette accese praticamente, la radio è ottima. Va bene, dai, io ti ascolto oltre 9, però non è fortissima la radio, forse c'è un microfono normale, non è amplificato quel microfono. No, negativo, non so se si fissa questo microfonino, ancora non ci ho lavorato. Cosa hanno portato? Dice che hanno portato Bologna nuovo, lo vogliono portare ad Alghero. Cosa hanno portato oltre le continuità di Milano e di Roma? Cosa c'è di tratte fisse? Bologna e... Carlo, cambio radio proprio con quella più selettiva, più sensibile, perché sono il QRM 8, tu sei in mezzo al QRM adesso, provo a cambiare radio se riesco con DSP a pulirti la modulazione. Un attimino, dammi un minuto. Guarda, se mi ascolti, ormai sarò meno potente con questa radio perché è un po' più bassa, però probabilmente adesso riesco a riceverti meglio. E te bara. Ciao Cla, c'è Carlo che sta andando ad Alghero, però c'è il QRM altissimo, lo stavo ascoltando benissimo, poi adesso probabilmente è una zona un po' remota, dai, poco coperta dalla mia antenna, e lo sento in mezzo al QRM. Antenna tu, Ciao Carlo, buonasera, arrivi, anche bene, non c'è problema, io purtroppo QRM non ne ho. No, non ti sente Roberto, c'è un bel QRM Carlo. È 8, però c'è il QRM a 7, come si abbassa il segnale l'ho perso, adesso lo ascolto. Mi ricevi Carlo? Ti riceve, forte e chiaro, sei tu che lo ricevi, non accoppi. No, c'ho il QRM a 7 e sono col 2000 adesso, figurati, ci ho inserito i filtri e lo sento disturbato in mezzo al QRM. Gappa. Ricordati di non cambiare, di rimetterlo com'era dopo. Hai capito Roberto? Cosa hai detto? Claro, scusa, stavo facendo roba. Ho detto, ricordati di rimetterlo com'era prima quello, usa l'altro. Certo. Adesso ho attaccato il computer di stamattina di Gianfranco, però non riesco a connettermi, mi dice connessione, non si connessa ad alcuna rete, voglio capire cosa è successo. Ma il TS2000? No, sto parlando del computer, il TS2000 è stato fuori, è questo il TS2000. Già sta funzionando bene, va benissimo, la grande. No, ho detto ricordati per rimetterlo nelle frequenze che lo devi mettere, non lo usare neanche quello, non serve a niente. Usa l'altro. No, volevo fare solo una prova se mi abbassava il QRM. Sì, me l'abbassa, però è troppo alto. Anche quello lì c'ha difficoltà. Dimmi. Dove sei Carlo? 4 corsie, così hai detto? Ho capito, no, io ti sento sempre perché non ho QRM. Roberto ti ascolta anche meglio di me sicuramente, però c'è un sacco di QRM, capito? Essere di nuovo questo passaggio, certi pezzettini quando si abbassa un po' di segnale ti sento con le pinze te vottuglio. Comunque ti ho ascoltato 9 adesso Carlo. Vai Claudio. Ehi, no, arriva benissimo, no, non ci sono problemi. È che io non ho QRM. punti di cazzo qua, ma è vabbè. Io ho venuto, io mi sono sdraiato un po', ma già l'ho sentito battere in veranda l'acqua, ha piovuto, e sta arrivando un'altra passata, è tutto nero qua. Io l'ho visto, nero il cielo, infatti, c'è un po' di venticello, un po' già te lo pulisce, ma ha fatto un attimo una passata di acqua, un bel, poi si è calmato, c'avevo l'ombrellone, quello, l'ombrellino, dai, quello da mare, quello piccolo per proteggermi, se no mi faceva la doccia. Vabbè, tempo suo, lasciamo fare, vedo che ti dica. Ero perdone, dove sei arrivato? Bene, arrivi alla grande. Ehi, non ti preoccupare, non problem. Già te lo passo io il numero se non c'era Antonello, quello è mezzo rincoglionito, ogni tanto perde tutto. Mi ha telefonato anche una volta, evidentemente non ce l'aveva salvato. Vabbè, ti ha chiamato, non lo senti ancora? Io lo sento adesso che parla, il segnale è forte, mi 8, però c'è un QRM altissimo, non riesco a capire quello che dice. Dimmi Carlo, vediamo se ti ascolto meglio adesso. Ti ho detto, volevo sapere se ti arrivo, ma... No, non arrivi da lui, o perlomeno arrivi di segnale, ma c'è un sacco di QRM e ti copre, capito Carlo? Sanissimo, però quella radio è bassa, se avessi un microfono più amplificato come una trampola accompagnavo sino a coso, dal ghero qua sino a Sassari perfettamente, va fortissimo, magari c'era qualche watt in più, però non si aiutava, la radio magari dava qualche watt. Tu purtroppo il segnale ce l'hai 8, però radio 0, ti do 1 massimo di radio. Sì, ma l'hai tipo calpestato, cosa stavi dicendo Carlo? Se mi sentivi da Giave? No, mi perdi, se tu parti da Bologna o da Giave, tu per la 131 te la faccio tranquillamente, no? Non mi puoi mai perdere perché io scavalco Scala di Ciocca, capito? Lo scavalcavo anche prima, ma anche da qua lo scavalco, quindi chiaramente ho l'apertura per la 131, perciò tutto il centro e sud di Sardegna lo abbraccio benissimo, non c'è problema, ma anche tu ti sentivo sempre, non ti ho mai perso. E infatti ti facevo la ponte per Giulio e per gli altri perché non ti sentivano. Sta furia del QRM bisogna risolverla, però non so se c'è qualcosa vicino che disturba, no, voglio fare un giorno alimentare la batteria a tutta la stazione, che magari c'è qualcosa che ti disturba tanto. Io ho meno di 5 il QRM da me non scende, poi adesso oggi siamo a 7, oltre 7 pure. Se non è il computer lì, le cose che ci hai attaccate, non lo so. QRM non ce n'è, perché io ho provato anche con la Mantova e QRM non ce n'è. C'è poco più di uno o due, ma non di più. Mentre con la Smartec QRM è zero. Però con la Mantova c'era la differenza enorme. Oggi non ne sento. Vediamo se sta piovendo, minchia, sento rumori strani fuori, sicuramente sta piovendo. Avanti Carlo, dove sei arrivato? Passato il bivio del Mero, qua c'è la rotatoria della strada dei due mari, molto bene, arrivi, non c'è problema. Vai Roberto. Questo passaggio l'ho sentito bassino, però l'ho sentito, ok. E poi è venuto Gianfranco, passo male, è rimasto un po', ci è rimasto un'oretta dopo che si è andato fuori per quarti d'ora. Siamo saliti a ispezionare il tetto, abbiamo visto un pochettino quello che si può fare, anche lui ha detto la sua, ma che è massimo è quello che ha detto anche Fabrizio, non c'è problema. Adesso ho ordinato con l'antenna la X7000, penso che arrivi intorno a martedì, mercoledì. Sì, è una trottata a piazzarla quella, devi innestare gli innesti interni e poi avvitare i cosi. Le canne praticamente va isolata, va vulcanizzata le canne dove ci sono gli innesti, montata una fesseria, deve essere fatta bene, comunque già ci vengo io, troppo altro io non c'è problema. Sì, grazie. No, ma tanto, come si chiama, il cavo c'è già pronto, devo fare l'adattatore, comprare un adattatore da PL a N, ma forse ce l'ho pure, non so se me ne aveva dato qualcuno, no, forse non ce l'ho messo alla radio, però già qua lo compro. Non so se ce ne ha, Fisaro, non so, io te ne ho volato due, non uno, due te ne ho volato di adattatori NPL, ok, e due BNC te avevo volato. Quindi se non li hai usati ce li hai, se no bisogna, io non ne ho, io ne ho uno solo che è appunto collegato alla radio. radio, ma basta. Anch'io li avevo tutti finiti, qualcuno l'ho dato, bisogna riordinarli. Beh, te lo dico in diretta, adesso sta per la scatto, vediamo un po'. No, non è un problema, già si trova una maniera nell'altra, già vediamo cosa fare. Carlo, mi senti? Carlo? No, sono tutti da N a BNC, la prolunghetta per allungare il PL, non l'ho usato quello di fammi vedere se c'è. No, non mi piace questo intestato, no, lo voglio prendere proprio dal datore perché c'è fatto nel cavo col coso, ma non mi piace. No, deve c'era anch'io il testato per aver atto. Non proprio perché non c'erano niente, c'è dispersione, deve essere diretto. Deve essere diretto, capito? Va bene, comunque una maniera nell'altra già, ma la soluzione la troviamo. È un po' che non ho sentito Carlo. Carlo, ma sei già arrivato a destinazione? Non ho capito, se ti sento basso anch'io, cosa hai detto? Ah, ok, va bene. Sei attento alla strada, allora vai, siamo qua comunque, chiamo appena arrivi a destinazione, vai Roberto. Ok, l'ho sentito anche io di sfuggita adesso, poco, ma non riesco a capire quello che dice. Ha provato i punti col portatile, naturalmente bisogna provarlo con l'antenna, vabbè. Dybala lo sapevo che non ce la faceva a citarlo, però gli altri, quelli di Itri, Porto Torres, altro quale c'è anche un altro, Villanova addirittura arrivava a Fondoscala. Villanova, che è il ponte a Villanova? Ah, il coso, come si chiama, il link nazionale, non ci vado mai io lì. Cos'è R7, che cos'è? R7, no, R7 è spento, R6 è spento. No, a Villanova mi pare che c'è il trasponder, il link del link nazionale, non lo so, no, guarda, veramente, non lo so, vabbè, io gli unici punti che ascolto sono R7 alfa, R2 alfa, R1 e R0, basta, poi del resto non mi interessa, tante notte che non ci vado, non me la fotti nulla. Uso la simplex e basta, finito. E già dopo che ho rimesso le cose come erano, ma non mi metto a fare cose strategiche perché non me ne frega niente. Giusto così per fare due chiacchiere. Chi mi vuole è così, chi non mi vuole, pazienza. Poi la piccolina, come mi hai detto tu, cos'è X300? O cos'è la tappa delle tabelle 711 diretta, quando dobbiamo parlare tra di noi, senza utilizzare i punti, la lascio così. Infatti ho detto, c'è quel tuo consiglio, è inutile far calla, cosa ne vuoi? No, c'è già attaccata lì, non devi toccare niente, lascia tutto com'è quel sistema. Quella lì l'attacchi diretta al 711. Ok, a tutta birra, tanto da non più di 25 watt, e quella radio, quando siamo in diretta, usi quella. Quando vai su punti e vai con la PS2000, poi capito, stai parlando magari in diretta, ti chiama uno sull'R7 e tu sei in monitor e quindi lo senti. Il problema è quello, avere tutto sotto controllo. Infatti poi un domani, se capita qualche occasione di un UHF, però a 220 lo voglio, non lo voglio, di cosa, come il gemellino, male, di quello a buon prezzo, l'811 è il gemello. Ehi, però non c'hanno i toni con le radio, sono radio vecchie, erano uscite senza toni. Vabbè, i toni, se vuoi usare i punti, c'ho il 2000, non è così? Ah, sì, come ho fatto io, certo, il tempo che c'ha i toni, lo uso sui punti, l'altro 599, se non hai i toni, lo uso in simplex, sì. Tante cose si possono fare, Roberto, è importante fare radio, essere presente, poi... Ripeto, piano piano le cose già si mettono a posto. Vediamo un po' dove è Carlo. Carlo, sì, ti sento, sei arrivato ai parcheggi, molto bene. Adesso siamo più tranquilli che sei arrivato a destinazione. No, non ti sente. Vabbè, ti saluto, è arrivato ai parcheggi dell'aeroporto e adesso va al lavoro. Ciao Carlo, allora ci sentiamo domani sicuramente perché stasera sei al lavoro, quindi non ci sentiamo. Tante cose belle, buon lavoro e buon tutto. Ok, ciao Carlo, ciao, riprendi Roberto. Lo so dove sta parlando, 7 arriva qua, ma lo copre il QRM. Ciao Carlo, fatti sentire quanto prima, dai, buon lavoro e buon tutto, ciao. Vabbè, quindi hai chiamato la maschera per l'antenna, io... Poi magari lunedì mi dai il numero di telefono, ci parlo anch'io per vedere se trovo qualcosa di più più performante anche per me, perché anch'io come antenne non ne ho più, la 510 si era completamente disintegrata, quindi non ne ho piazzato. Fortunatamente per fare due chiacchiere ho quella piccola, però anch'io monterò, ma io della 7000 non me ne faccio niente, io monto un'altra 510 compro. C'è pochissima differenza di prezzo, vabbè, te del 1200 non te ne ha fottuta, però io voglio fare anche quando sarà ascolto, provare qualcos'altro di diverso, ce l'ho già predisposta, mi pare che costi 15 euro di differenza, una cosa del genere. Infatti anche Marco mi ha detto prenditela direttamente, così un domani che decidi ce l'hai già bella che è pronta e non devi mettere niente. Ma c'hanno una marea di roba, sono entrato nel loro sito dove abbiamo comprato il microfono, addirittura c'è un MC50, stanno vendendo fare 60 euro, poi c'è MC85, una marea di radio, c'è anche 990, 7008, FT5000, di tutto, ci sono centinaia tra radio e apparecchiature, ma a prezzi veramente convenienti. C'è un 140, hanno venduto 280 euro, subito venduto, infatti c'era scritto. Poi c'era un 790, bello, 450 euro. Ma il 790 qual è quello? Bimbanda della Kenwood? Sì, Bimbanda della Kenwood, quello che rimane nero tipo il 450, bello, una bella radio. È il gemello dell'850, 790 è il gemello dell'850, stessa stazza, bello grande, più grande del 450, 450 è come il 440, come sta, quello è come l'850. L'ho avuto quella radio, e ne ho avuto tante. Va bene, ce l'ha, mi pare Fabrizio, quella radio lì, no, ce l'ha Vera, forse gli aveva crepato il fulmine. Ce l'aveva Fabrizio, poi c'hanno un 950, lo stanno dando a un buonissimo prezzo, mi pare 600 euro, perché forse c'è il sistema del PTT, se lo usi col microfono amplificato, cioè manuale, funziona perfettamente, se metti l'MC60 dice non funziona l'up-down, non l'amplificazione, poi dice che c'è probabilmente qualche tensione da vedere, però apparecchio nuovo nuovo. Poi c'hanno un 850 che hanno venduto, mi sembra 340 euro, perché c'aveva il coso, la custodia, diciamo, il coperchio frontale tagliato, infatti si vede in fotografia, ma è un buon prezzo questo. No, ma la maschera è stata sempre una grandissima casa di vendita, nel senso un grande negozio, poi sono seri, c'è un microfono nuovo, bello, funzionante, c'è il cavo nuovo, lo spiralatte, connettori sono nuovi, luci, bello, e quel prezzo va bene. Va benissimo, e questo che sto usando adesso con 430 e la Mantova. Va bene. No, robe io a testa non le compro, non mi interessano, ce le ho. Va bene così, va benissimo così. Piuttosto devo sistemare un po' per contenere, qualche verticale in più, niente di particolare. Poi per il resto, quello che ho sempre letto, io continuo a farlo, ma attività materiale non le faccio, per chiacchiere, vuoi, non fa bene così, dai. Tra quelle due minuti mi ha chiamato mia figlia, riprendo subito. Ehi, fai, sono qua. Molto grossa, bella la modulazione, va bene, ottima, non lo mettevo perché mi sembrava che non serviva a nulla. Ma no, stai scherzando, perché non riesco a... Ho fatto un audio qua, perché non prende il telefono. Sono per aver fatto un audio e te l'avrei mandato. Per la modulazione, sembra, se non me lo dicevi, pensavo fosse un 60. Non si è riuscito adesso, cos'hai toccato? Cosa stai toccando? No, non stai riuscendo. Non ho toccato nulla. Allora c'è qualche falso contatto nel connettore, non so. O forse mi hai schiacciato bene il PTT. No, ho scoperto che si è allontanato appena il microfono. Infatti si è uscito a tratti, adesso rimettilo com'era, no? Ma è com'era? Adesso si è uscito. No, la modulazione è bella. Questo problema risolverò, perché la modulazione è molto bella. Vabbè, non è un bus, è uno di quei palmari buoni. Sì, lo conosco, io sono stato Black. Lo conosco con la statici. Vabbè, avanti Black. Segnale sempre solito, fortissimo, la radio 5 perfetta. Hai sentito, a Claudio siamo qua. Claudio di Porto Torres, Claudio di Sassari, Claudio di Muros. Hai sentito Porto Torres e Muros? Sì. Non molto forte, arriva a livello di QRM. Intorno 5, la radio appena comprensibile. Hai sentito, Claudio? Di là a me, è tempo brutto, sì, qua è montagna. Noi siamo in alto, anche tu come paese sei in alto, quindi c'è molto più freddo. E poi sta sempre piovendo, oggi tutto il giorno che piove, anche adesso sta piovendo qua. Non c'è problema. Sì, vabbè, il segnale non è che cambia molto, Sì, 9.40 quando hai un pochino più di potenza, ma adesso sì, 9.30, quindi no, non è che cambia molto. La radio 5 è perfetta, senza problemi. C'era anche Roberto, poco fa si è dovuto assentare, ma già rientra, vediamo un po'. Roberto, ci sei? Sì, sono rientrato adesso. Ciao Claudio di Muros, l'altro Claudio di... Claudio Viso, quante sono? Senti. 3-3, Claudio di Sassari, Claudio di Porto Torres e Claudio di Muros. Vai tu per chi vuoi, vai. Sì, dai, iniziamo da Porto Torres e poi Claudio di Muros. Avanti Claudio di Porto Torres. Sì, ciao Roberto, ciao. Come ti sembra questo microfono? Scusi, ti ascolto perfettamente, Radio 5, segnale 9+15, la radio è un po' nasina, la sento, ma è comprensibile, non è ideale, dai, c'è di meglio. Ho capito. Provo a rimettere il suo, vediamo che differenza c'è, provo a rimettere il suo un attimino. Vai Claudio di Muros. La radio del 5 è perfetta, superi 9.10 con i picchi. K, va bene, stai arrivando benissimo, qua non ci sono problemi, tutto roggero. Io sono con 430, MC60 e la Mantova. Stiamo facendo andare un po' questa radio, se no rimane troppo ferma. Vediamo Claudio se ha cambiato microfono. Porto Torres. Sì. Ditemi come adesso, 1, 2, 3, questo qui è quello che uso di solito. E mi spiace per Claudio di Muros, ma lo sento proprio agli occhi. Non è molto comprensibile per me. Come questo, Roberto? Sì, da parte mia va molto meglio, più naturale la voce, l'altra era un pochettino troppo nasina, sembra avere raffreddato. Ok, e una domanda, ti sta aiutando o stai uscendo pulito? Allora, 20 watt di portante e poi modulato sale parecchio. Ok, se vuoi dire che tipo di apparato, basta dire le iniziali senza dire il modello. Te l'ho detto l'altra volta, uguale al tuo. Tu già metto l'altra volta, Roberto, nel Porto Torres c'ha quella radio, sia lui che l'altro mio amico, capito? Uguale alla nostra, dai. K, K, no, perché l'altra volta mi ha detto c'era una diversa radio, pensavo magari avesse sostituito. La microfonia è 60 comunque, Claudio. Microfonia 60, lui, non lo so, 60 te usando le sopra. No, no, assolutamente, il palmare normale. Il palmare normale, certo, va benissimo, la grande, io non lo uso mai. Vai bene, sì, più corposa la modulazione, cioè più medio-bassi, quella là la più acuti. Però ripeto, io ti ascoltavo benissimo, nessuna differenza. Ok, avanti Muros. Ah, l'hai sentito Claudio? Sì, ma ripeto, lo sento bisbigliare, c'è troppo QRM. Quasi quasi il QRM l'ho sorpasso, lo sento proprio a livello 00. Non lo so, se non ha... non abbiamo problemi, a Roberto lo sentiamo fortissimo qua, però per il dottore Gemari deve avere un po' più di potenza qua, riprende e fa girare per Roberto. No, io ti ho ascoltato perfettamente, vabbè, anche come Slovatti siamo probabilmente molto, molto attenti uno con l'altro, ti ascolto perfettamente, come ascolto bene anche a Claudio giù di Porto Torres. E se ne va un rapporto a me, Claudio di Porto Torres? Sì, 9.5 con picchi positivi, la radio è sempre ottima. Ok, tu arrivi un po' più forte, probabilmente c'è qualche cosina in più di me. Ok, avanti torre di controllo. Qualche cosina in più di te, dal dito 20 gradi, qualche cosina in più di te c'ha solo la posizione lui. La posizione più alta di tutti è al faro. Lui a metà di dove c'è il faro di Porto Torres, quindi se tu immaginati che il faro di Porto Torres si vede la Ginara, si vede via mare, è una zona fantastica, quella è una zona altissima, la più alta che c'è nella città, quindi qua arriva 9.5 lo stesso, io sono fuori Sassari a te 9.10, a me 9 più 5 è pieno, con picchi positivi a 9 più 10 tra l'altro. Quindi anche non vedendolo c'è una posizione estremamente molto molto bella. Va bene, va bene. Avanti Muros. A questo che stai dicendo tu Fabio, c'è un radioamatore a Coso, a Torralba, ho parlato con Giovanni, se mi ha detto che c'è un radioamatore, assolutamente. Io sinceramente non so neanche se ci arrivo o se riesco a sentire a Torralba, proprio non ho idea, perché Torralba è in un fosso qua, completamente chiuso per me, mi immagino, almeno poi non lo so. Vabbè, si può fare tante cose, sempre piano piano però. Torralba dietro l'angolo ragazzi, e dopo lì Tiesi, di cosa state parlando? Terralba, provincia di Orisano, lì ci vuole Claudio Sparviero ad arrivare, io ci parlo con Terralba, lì ci sono un paio di maturi. Terralba, sì, c'è Fabio, c'è anche Giovanni, c'era Marcello prima, non mi ricordo, poi lì c'è la casa anche un radioamatore che c'ha quello praticamente, vabbè, quelle antenne che tu vedi giù alla fine di all'inizio di Napoli, capito lì. Quello c'è anche la casa lì a Torralba, perciò non c'è problema, ma Torralba è qua dietro l'angolo. È Terralba che è provincia di Stano, lì è un po' più difficile arrivarci. Avanti Claudio. Claudio chi? Tu. Ah, l'altro lo chiamo Muros, tu sei Claudio, vai. Ok. Sì, io sto cercando di mettere in pensione questa antenna perché mi ha rotto le scatole, troppo QRM, troppo. Ho ricontrollato tutto, discesa, PL, ho messo tutta roba buona. E adesso c'ho 1,2 o 1,3 di stazionarie, quindi. Però il QRM è troppo alto, troppo. Ho provato a cercare l'antenna che avevo un tempo, la Circe 2000 Gold. Con quella arrivavo dappertutto, anche in Corsica, tranquillamente, Alghero, e dappertutto arrivavo con quella, riceveva molto bene. Purtroppo i tedeschi non la fanno più, un vero peccato. Era veramente un'ottima antenna, ma ero questa. Ma scusa, che antenna stai utilizzando adesso tu? Siamo tutti e due identici, solo che tu arrivi 9 più 15, mentre a me mi ha detto che arrivo 9, io sto dicendo una decina di watt, non di più. 9,5 adesso, con picchi positivi. Su, invece arrivi 9,10 e con i picchi arriva 9,15. Attento, no, abbiamo le stesse antenne, dovrebbero avere lo stesso coso. Comunque questo qua non è sottofondo la Juve, se interessa qualcuno, 0-0 con l'Atalanta, si stanno giocando, attaccando uno e l'altro. Io lo so già, per cui... Cos'hai detto giù? A me invece è una fottenuta, io c'ho il radio, porto il radio, la Juve si vince, vince, e se non vuole vincere si picca. Ciao Claudio, ben ascoltato dopo un bel po' di tempo, e sto guardando la partita della Juventus, quei calabri della Juve. Io nonostante che sono juventino, ma ritengo che sono dei calabri quest'anno, già in putrefazione tra l'altro. Vai Claudio ancora. Non esistono tabelle, non è come dire valuti un terreno, un appartamento, eccetera. Lì la società, infatti, devono trovare una legge per cercare di dare un parametro di valutazione del giocatore in base alle presenze, il torneo che ha fatto, la nazione dove ha giocato, quanto è presente in nazionale, perché non puoi tu valutare un bidone 10 milioni di euro e nessuno lo conosce. Ok, di nuovo a te Porto Torres. Sì, ne approfitto per dirti che secondo come parli... Come vari il tono di voce, arrivi 9,10, sì, va bene allora. Ok, di nuovo Claudio Di Muro. Stanno chiamando, certo, sto rinviando. Sta parlando? Sì, sta parlando. Se facciamo prendere a Giulio che non ho salutato. Ciao Giulio. Ciao di nuovo Roberto, io vi saluto tutti comunque di nuovo. Sì, sono via di Muro, cioè non capisco perché in quest'ultimo passaggio sei uscito qua Ramato. Focanti ti sentivo meglio, però evidentemente non sta piovendo o qualcosa del genere. Io non lo so perché qua è tutto chiuso, per cui non so immedesimarmi se sta piovendo o meno. E infatti Porto Torres non ti sente, non ti sentivo assolutamente. Comprendi Claudio Porto Torres? Non mi senti? No, no tu, e a te che ti sento. A Claudio stavo dicendo, non lo senti, a Claudio di Muro, tu non lo senti? No, non lo sento, purtroppo adesso il QRM è aumentato, ce l'ho più di 7, ce l'ho, incredibile. Se qualcuno mi fa la ponte potete chiedergli come se gli arrivo io là. Certo, ci provo subito, attento Claudios, Claudio di Muros, dimmi se senti Claudio di Porto Torres che c'è bisogno di un ponte, avanti, come si chiama, Chiara Ruginito, non lo ricordo mai il suo nome attivo, avanti. Mi dispiace evidentemente, ma cosa è successo? Sta grandinando, mi sembra di aver capito, c'è Roberto che può fare la ponte, vai Roberto, tu sei più in posizione idonea per lui, vai Roberto. No, io l'ascolto oltre 9:10, non c'è problema, e la radio è sempre 5, no, adesso sta grandinando forte, degli Amuros, sta uscendo contro le VAT con un console pulito, no, ti ha fatto una domanda a Giulio, Claudio di Muros, se ascolti a Claudio di Porto Torres, QSL. Guarda, se Muros ti ascolta anche molto bene, è lui della grande in questo momento, in quella zona, per cui non lo chiedo anche per quello. Però in quest'ultimo passaggio hai aumentato il radio, Claudio di Muros, si è andato meglio in questo passaggio, forse hai dato... Ah, parlando in due. Lui Claudio Porto Torres. E avete parlato in due? Sì, avete parlato in due, poi Giulio, comunque sta diluviando, a tutto andare, ma forte, veramente molto molto forte. Avanti Claudio di Porto Torres, mi ascolti? Sì. Sì, ti ascolto forte e chiaro. Poi un altro momento mi dai qualche dato di quella Smartex. Sto valutando per un'antenna un po' migliore, vediamo un po'. Torno indietro, io molto probabilmente dovrò anche toglierla questa, dovrò toglierla perché me l'hanno chiesta e mi ha chiamato proprio stamattina il venditore, non ne ha più, ne ha venduto 30 ne ha venduto, non ne ha più e quindi c'è un suo carissimo amico in provincia di Cagliari e mi ha chiesto la cortesia, tanto io ne ho due, c'ho anche la Mantova se gliela lavo. Infatti adesso domani se non piove la smonto, la pulisco e però una passata di nylon e gliela mando col corriere, gliela mando lì a vicino a Cagliari e poi io aspetto che mi mandi quando arrivano gli altri e me la rimanda nuova, capito? Non c'è problema. Sconto di 20 euro, ma è nuova, ho già, c'è due mesi l'antenna, quindi e ve la spedisco, perciò per dirti ne ha venduto parecchio nella sua zona e anche in Sardegna, tramite me ne ha venduto tantissime. Avanti Robert, riprendi. Attento, registrato un break e un attento io, vai tu Robert, fai passare. Allora una cosa, non per fare critiche, quando parliamo diamo il cambio, perché se no succede come prima, hanno parlato entro e non si è capito niente. Se c'è cambio e così siamo sicuri, facciamo passaggi più brevi e così riusciamo a parlare tutti quanti, senza critica a nessuno. È rientrato Gianfranco, facciamolo entrare, avanti Gianfranco. Sì, buonasera a tutti, solo per un QTC per Roberto sul C1, se puoi passare. Buonasera a tutti gli altri, scusate l'interruzione. Eia, mi sotto un attimino, ci rientriamo troppo, tra poco. Ok, uno. Chi è l'altro che ha detto qualcosa avanti? Non entra. Allora, in questo sul canale 10 ci sono io, Claudio di Porto Torres, Giulio, Claudio di Muros e Roberto con Gianfranco che sono spostati. Avanti Muros. Vabbè, no, non passa. Avanti Giulio, riprende e fai girare. Ok, riprendo io. A me non volevo sbagliarmi, ma mi era sembrato Ruffa. Comunque, evidentemente si è allontanato, se non vuole entrare o se non può entrare. Sì, poc'anzi io purtroppo ho stato ammutolato al Claudio di Muros perché non lo sentivo più e pensavo che avesse finito il passaggio, per cui non è stato un errore così, diciamo, volontario da parte mia. Va bene, scusate comunque. Avanti Claudio di Porto Torres. Comunque Claudio, vieni, io ho fatto una piccola ricerca, c'è anche un'altra ditta che la fa, la Pro Sister, è leggermente appena appena un pochino diversa, però siamo lì, e costa anche un po' di meno. Adesso quale sia la migliore non lo so, perché non ci sono paragoni in giro, no. Comunque ci sto facendo un pensiero, se tu dici che va bene, e qua a QRM come fa Claudio? Zero di QRM ce l'ho io, scendo nell'aria, e beh tu fai uno più uno, se la Smart Tech è la casa costruttrice madre, e la vende a 180 euro, ok? Adesso la stai imitando la prosista, le costa di meno, secondo te qual è il problema? E tutti adesso si mettono a imitare e poi ne esce un casino. Io compro sempre Smart Tech, se la Smart Tech è la casa costruttrice io compro la casa costruttrice, capito? Come Giulio si ricorda, andavano a comprare la Panda che si chiamava Marbella in Spagna per risparmiare soldi, poi durava da Natale a Santo Stefano, quando invece la Fiat faceva la Panda e si chiamava Fiat Panda, quella si chiamava Marbella, però era fatta in Spagna, uguale alla Panda, ed era una grandissima cagata in parole povere. Quindi non vi fate prendere, quando uno compra un'antenna, ricordiamocelo sempre tutti, che se non hai antenna è inutile che hai radio, su questo non ci piove. Quindi l'antenna deve essere efficiente e originale, comprata dalla casa costruttrice, perché se tu vai a comprarla da una che è la copia, non è mai come quella, sia come materiali che come tutto. Perché se tu vedi la mia, lui andrò a vedermi quella della ProSystem, ci sono delle differenze enormi di materiale, a me interessa il materiale, capito? Il materiale, perché poi uno dice l'ho comprata, l'ho pagata di meno, dove? Alla ProSystem, non alla Smart Tech. Io compro la Smart Tech perché è la casa che l'ha costruita, la casa che la gestisce, la casa che l'ha costruita, ok, che l'ha progettata. A me della ProSystem non me ne ha fatto nulla, anche perché la ProSystem può fare tante belle cose ma fa anche tante belle cagate. Avanti Muros. Ok, riprendo io intanto, vabbè, in effetti la cosa originale è sempre da comprare, sicuramente. Comunque vi comunico che la Juventus sta perdendo 1-0, vabbè, a parte quella storia lì. Sì, beh certo, l'antenna è molto importante, quella di Claudio, quella di Claudio di Sassari, Claudio, questo è un messaggio che sto dando a Claudio di Porto Torres, se tanto per darti un'idea. Con l'antenna a Mantova che lui ha, perde 5 punti S, mentre invece con quella li guadagna la grande, no? Non c'è problema, questo è il rapporto che gli ho dato io da quando ho cambiato l'antenna. Con quella nuova ho guadagnato 5 punti S da qui da me, con la stessa potenza, con la stessa radio, però con la diversa antenna. Dunque ho Claudio di Porto Torres, sicuramente un'ottima antenna quella, la StarTech 27, appunto. Bene, lunga 8,50 m. Mi prendi Claudio Porto Torres. A chi? La Juventus, a quella di Bagliacci, merita di vincere. Io ieri mi stavo leggendo la storia di quell'antenna. Allora, quell'antenna è stata inventata da un tedesco nel 1909 ed è stata piazzata per la prima volta su un dirigibile, su uno Zeppelin, figurati. Non è nata adesso, assolutamente non è nata adesso, e addirittura c'era qualcuno l'ha autocostruita, eccetera, e poi ogni casa ne fa una, non è che dire che quella è l'originale e quell'altra così, no, assolutamente, ne esistono molti modelli di varie case, anche straniere, di case d'oltremare. Comunque, era soltanto una mia ricerca per... Voglio cercare di togliermi questo maledetto QRM che ho, sarà per i cavi elettrici, sarà per i cavi della DSL, chi lo sa, le sto provando tutte. Le sto provando tutte. Vai Claudio. Guarda, io c'ho zero di QRM, non so se riesci a segnare poco fa, ma io ho già commutato, vabbè, come radio è sempre, diciamo, i microfoni sono qua, Luca fai la bravo. E niente, però sia come ho fatto anche le prove con Marco Scorpio, ma Giulio anche lui si è appunto accorto la differenza facendo proprio delle cose ben precise con una radio, cambiata una radio col commutatore a due antenne e una radio, non due radio e due antenne, no, una radio e due antenne, e c'è una differenza allucinante. Io ho QRM0, sì, però io ti ripeto, questa è un'antenna che esiste da secoli, ok, è stata perfezionata per la 27, la casa costruttrice che l'ha perfezionata ed è ufficialmente esportatore a livello per tutta l'Italia è la Smartec, ok, poi tutte le altre se vogliono copiare copiano, io l'ho preso dalla Smartec. Va bene, comunque adesso sto andando con la Smartec, poc'anzi mi stava iniziando a salire il QRM perché stava piovendo, adesso il QRM ce l'ho a zero, non si muove per niente, quindi riesco ad ascoltare anche se qualcuno magari chiama da fuori, lo ascolto sicuramente. Quindi Claudio, se poc'anzi hai visto il mio segnale con la Mantova, adesso sto usando la Smartec, quindi sicuramente è ancora più alto il segnale. Avanti Muros. Beh certo, io con questa ho 140, questa è la Smartec con 140, poc'anzi ci avevo il 430 con la Mantova. Le modulazioni sono simili, non è che cambia molto, però adesso ad esempio Claudio di Porto Torres poco fa con la Mantova di 9,5 quasi 9,10 pieno, quindi ti do lo stesso segnale che ti dà Roberto con picchi positivi. Giulio era 9 più 10 con la Mantova e 9 più 15, Claudio vabbè ce l'ho troppo vicino, segnale poco cambia, ma voi avete aumentato di 5, capito? È tutta lì la differenza, anche perché ripeto, ribadisco che tra una 5 ottavi e una 7 ottavi c'è differenza, anche perché è quasi un'onda intera. Vai Giulio. Ok, sì, vabbè, una piccola correzione, io non ho la Mantova, ma ho la Game Master, Claudio, ha avuto un attimo di confusione, per cui, però, diciamolo, è una grande antenna quella, dai, è meno male che l'hanno inventata, un'antenna da 7 ottavi, anziché da 5 ottavi, ma mi sembra che esiste anche un altro tipo di antenna, che non ricordo come si chiama, che aveva 24 radiali, ma era immensa questa antenna qua, e costava una placca di soldi, però non mi ricordo, se voi vi ricordate il nome, se avete avuto modo di vederla in rete, la sua figura eccetera, io non me la ricordo, ma era un'antenna sempre per la 27 che aveva una potenza fenomenale, addirittura superiore alla 5 ottavi, non so se anche quella fosse la 7 ottavi come quella che hai tu adesso Claudio, però aveva 24 radiali, micidiali, ma è dove ci vuole uno spazio enorme per mettere un'antenna del genere, per carità. Sì, indubbiamente lì probabilmente anche perché hai i fili elettrici, come hai detto tu Claudio di Porto Torres, probabilmente anche quello, il fatto di avere un QRM molto alto, veramente, no, io non, della verità non mi posso lamentare, ci ho lavorato anch'io, tante volte ai Santiago 7, però anche se arrivano segnali leggermente più bassi riesco a capire ciò che dicono. Però ripeto, ho la Game Master che diciamo per nomina è un po' più silenziosa della Manta Batturba che avevo prima, che l'ho tolta e l'ho messa da parte. Avanti ancora Claudio Porto Torres. Sì, la Game Master l'ho avuta anch'io, però come QRM sì, in effetti ne aveva molto meno, ma ho visto la prima raffica di vento, si stava strozzando in due, ho avuto paura, me l'ho tolta subito, prima che mi riscende qualche pezzo giù e faccio danno alle macchine sotto, ma c'è, tocca pagare quanto c'è. E per il QRM ma c'è, l'ho provato anche con un DSP e un po' si strozza, però poi perdo molto segnale, eccetera, ma c'è. Vabbè, per adesso mi accontento così e comunque vedo. Comunque Giulio, forse con l'antenna che stai dicendo si chiama Big Mac, Big Mac. Non la fanno più, era un'antenna americana, andava a testa di tutti, era miracolosa, andava molto bene ed era 7 ottavi, molto, molto grande, aveva una sorta di spirale strana al primo pezzo e poi due verticali fino a un certo punto lì, mi ricordo un po' il disegno com'era. La ditta che la faceva non l'ha più fatta e non si trovano mai usate, nulla, proprio niente, non... Poi con molti radiali ne aveva una Fusaro che me la voleva vendere, una Stella, che la voleva quasi 200 euro, gli ho detto a mangiarsela, esagerato come prezzi, Fusaro è terribile, caspita. A proposito Claudio, digli a Roberto che quegli attaccatori ce li ha Fusaro, li ha comprati anche Antonello un paio di giorni fa, quelli attacco N, PL, PL attacco N, eccetera, ce li ha. Vai Claudio, vai tu. Sì, no, vabbè, io gliel'ho volati un po' di quegli attacchini, ma li ha usati, adesso le riprenderà. Sì, la Superstella 24 esisteva anche Claudio, c'era la 12 e la 24 radiale, però i radiali erano da 80 cm in vetroresina celeste, la carica era, c'era un bicchiere praticamente in vetro, molto bella con l'antenna, tutto in, la carica era tutta in rame, ottima antenna, e che esteticamente era molto leggera, la costruzione dell'alluminio era molto leggera, se fosse stata un pochino più pesante magari faceva più strada. Quando è uscita la Mantova, infatti tutti hanno comprato la Mantova, quella non l'hanno comprata più, ma l'ho avuta anch'io, però la 12 radiali, non la 24, c'era la Stellar e la Superstellar. Va bene, ok, comunque le antenne sono tutte buone, poi ripeto, se uno ha una buona posizione riesce a fare qualcosa in più, però le antenne già sono tutte buone. Io ripeto, ribadisco come ho sempre detto, che la Mantova per me rimane sempre la Mantova, non ce n'è. È chiaro che questa a prove fatte le batte tutte, non ce n'è per nessuno, sia Mantova che tutte. Ma perché una 7 casi magari è inferiore. Tutto qua. Avanti, Muros. Ok, Claudio Di Muros, grazie a te per questo, ci sentiamo domani se coincide, è sempre un piacere ascoltarti. Ieri sera tra l'altro ho sentito anche tuo padre dopo tantissimo tempo, mi ha fatto piacere. Ok, ti mando avanti gli amici per i saluti, così almeno fanno finalino anche per te. Avanti Claudio di Porto Torres, per Claudio Di Muros che chiude. Sì, l'ho sentito appena appena adesso, ma altre volte lo sentivo molto più. Molto bene, adesso non. Vabbè, ci sentiremo meglio alle prossime. Comunque, ciao, ciao Claudio, ci sentiamo più avanti. Sì, è la stella. Comunque, sapete qual è? L'antenna che va per la maggiore si usa per i 10 metri ed è un'antenna che fanno minimo, la fanno 30 anni. E tutto in vetroresina e mi sa che la Gain Master l'hanno copiata da quella proprio. Si chiama Solarcom IMAX 2000, è uguale in vetroresina, lo stesso, è molto robusta, e però siamo sempre lì a livello di Mantova, non è miracolosa, hanno già fatto le prove, ho letto le prove, le ho viste. E siamo lì, no, non è che sia né migliore né peggiore lì. Vai Claudio. Sì, capo, sì, l'ho vista, la conosco, ma la Game Master è qua, non è in vetroresina, sono dei tubi PVC, non è in vetroresina, capito? Sono dei tubi in PVC, dei tubi particolari in PVC, non è in vetroresina, assolutamente. Quella in vetroresina sono quelle che usiamo noi, che poi sono praticamente vetroresina plastificata, e quando la plastica poi si brucia col sole vedi solo la diventa trasparente. Sono quelle che usiamo noi, VU, insomma, per capirci. Però la Game Master io ho visto tutta la costruzione, sono tubi PVC. Vai Giulio. No, non lo so di preciso che tipo di materiale, loro parlano di vetroresina, parlano di altri materiali che io sinceramente non me ne intendo, non so che tipo di materiali usano per costruire quell'antenna lì. Comunque io ce l'ho, sono contento, mi va bene, è leggera, non ha radiale, per cui non si posano i volatili sopra, e allo stesso tempo è un'antenna che la compri, la tiri su e non devi accordare niente di niente, nella maniera più assoluta, è silenziosa e rende anche, se vogliamo, dai, rende anche. Poi tornando al discorso un attimo indietro della Stellar, io la Stellar ce l'ho avuta, avevo quella 16 radiali, i radiali lunghi 70 cm, l'ho tenuta oltre 30 anni, l'ho tenuta, era un'ottima antenna veramente, quella antenna lì a me mi aveva addirittura permesso di arrivare anche in Florida, in giornata di popolazione chiaramente, però intanto ho fatto un collegamento anche con la Florida e non mi sembra che sia lì dietro, stiamo parlando dell'America in pratica, per cui era un'ottima antenna, 16 radiali, una bobina trasparente con uno spessore di bobina eccezionale, sembrava un cavo RG58 di quanto era grosso, però era, in realtà era un filo ad avvolgimento in realtà di quelli isolati eccetera. Avanti Claudio Porto Torres. Scusate un attimo che è arrivata mia moglie, riprendo tra una decina di minuti. Sì, no, io